abbiamo la gioia di celebrare insieme questa domenica della misericordia, proprio nel cuore di questo anno giubilare che è dedicato a meditare, a contemplare la misericordia di Dio e anche ad esercitare noi, possiamo dire a contemplare ed esercitare la misericordia ciascuno di noi dopo averla sperimentata da parte di Dio verso di noi. Noi cerchiamo, secondo il suo insegnamento, il suo aiuto, la sua grazia, di esercitarla tra di noi. E quest'anno questa Domenica della Misericordia cade proprio nelle stesse date, se non erro, di quell'anno in cui Giovanni Paolo II morì, proprio con quella delicatezza del Signore di chiamarlo a sé. È proprio, ecco, il 2 aprile, la sera, nei vespri, no, della domenica, della seconda domenica di Pasqua, che lui stesso aveva chiamato Domenica della Misericordia, seguendo un suggerimento che veniva ancora da Suor Faustina, no? Quando questa silenziosa e nascosta apostola della Divina Misericordia, che aveva ricevuto tante illuminazioni e tante visioni anche di Gesù, ma le aveva raccontate solo al suo confessore, quindi fu solo dopo la sua morte che furono conosciuti questi scritti, e quindi Giovanni Paolo II, ancora da giovane prete, penso, in Polonia Colombe, da vescovo, questi scritti, anche era devoto di questa persona, andava a trovare per pregarla. E quest'anno quindi abbiamo un ricordo un po' particolare, un po' speciale di San Giovanni Paolo II, e che chiediamo anche alla sua intercessione il fatto di poter, in un giorno come oggi, fare, ecco, un'esperienza, un'ulteriore esperienza, una nuova esperienza, se possibile, no, della misericordia di Dio, e forse anche di comprendere un po' di più, no, come mai questo giorno nel quale ricordiamo, anzi più che ricordare, riviviamo l'apparizione di Gesù nel Cenacolo e alla presenza di Tommaso dopo che il giorno della resurrezione, il primo giorno dopo il sabato, quando entrò nel cenacolo a porte chiuse, quando tutti stavano ascoltando i racconti di Maria Maddalena sul fatto che aveva visto il Signore, e stavano per arrivare gli altri due discepoli che avevano visto Gesù sulla strada per Emmaus, stavano ascoltando, e apparve Gesù e videro le sue piaghe e videro nelle mani, nei piedi, videro la ferita nel costato, e questo volle Gesù allora far vedere loro, e lo riconobbero, cioè quell'uomo che stava lì davanti a loro era proprio lo stesso che tre giorni prima, insomma, un calcolo di tre giorni di contratto, no? E quello era la domenica di Pasqua, come la chiamiamo noi ormai adesso, sabato, venerdì, avevano visto appeso alla croce e morire morire, donare lo spirito al Signore, e dire per il Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, e diceva, ho sete, diceva, Dio mio, perché mi hai abbandonato, diceva Gesù sulla croce, donna, ecco tuo figlio. E poi al discepolo che amava, ecco tua madre. E lo stesso, quello stesso Gesù che era stato il loro maestro, Rabbuni, che li aveva fatti, che li aveva chiamati, che gli aveva spiegato, svelato il volto del Padre, gli aveva, insomma, fatti sognare. Quello stesso Gesù che era morto sulla croce era davanti a loro quel giorno, ma Tommaso non c'era. Tommaso non c'era. E poi dopo loro torna per conto suo o lo vanno a cercare per raccontargli questa notizia nuova, così sconvolgente, che è, che fa parte del Vangelo in modo così essenziale. Sì, Dio si è fatto uomo, è uno di noi, è diventato uno di noi, è nato da donna, da Maria, e ha vissuto la nostra vita, e adesso è dopo aver accettato quella morte così ignominiosa e quindi dimostrato a noi che ci ama fino all'ultimo nonostante questo peccato così grande, quindi lui c'è sempre e non toglie da noi, non toglie a noi il suo amore infinito, ha deciso di amarci con tutto se stesso, con tutta la sua vita, con tutta la sua morte, possiamo dire anche così, con tutto il suo sangue. Ecco, allora Tommaso rifiuta di credere, forse, e noi lo dobbiamo anche ringraziare per questo, perché abbiamo avuto così un'ulteriore dimostrazione della risurrezione di Gesù e del fatto che quel Gesù che è risorto è proprio colui che era stato crocifisso. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, Didimo significa gemello, chissà perché lo chiamavano così, qualcuno ipotizza, forse lo chiamavano così perché assomigliava a Gesù, è come un gemello, chi lo sa. Noi possiamo desiderare di assomigliare a Gesù, e Tommaso, dopo l'esperienza di questa domenica, assomiglierà a Gesù molto di più. Non era con loro quando venne Gesù, gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, e il Vangelo, che è essenziale, non racconta tutto quello che gli dicono, ma evidentemente gli hanno detto, guarda che è proprio lui, guarda che abbiamo visto le sue mani e il fianco, no? Poco prima il Vangelo dice, quando Gesù entra il giorno della resurrezione, stette in mezzo e disse pace a voi, detto questo mostro loro le mani e il fianco. È molto suggestivo, significativo Gesù, e forse ci dobbiamo soffermare, lungo tutta la storia della Chiesa i santi si sono soffermati, e anche e tutti i cristiani, no? Sulle tue piaghe, le piaghe del crocifisso che diventano le piaghe del risorto. È un bellissimo mistero il fatto che tu Gesù abbia voluto nel riprendere la vita, quindi una vita nuova, una vita di chi non muore più, e sei il primo dei risorti, noi crediamo guardando te che anche a noi accadrà questo. Noi crediamo nella risurrezione della carne. Il credo degli apostoli è quel credo più antico e più breve, no? che si può anche dire nella messa, è bello dirlo ogni tanto, non solo quello più lungo che viene dopo il concilio, i concili, no? Niceno-Costantinopolitano, no? Dopo i due concili che parlano, ecco, di Cristo, no? Credo nella resurrezione della carne. Noi saremo come Gesù saremo dopo la resurrezione della carne. Lui è il primo dei risorti che non muoiono più, e gli altri che ha fatto risorgere il figlio della vedova di Nain, Lazzaro, e la figlia di Gairo, e in realtà poi tornano alla vita che avevano prima e quindi poi moriranno. È significativo che tu in questa vita nuova che hai, che è tutto nuovo, è tutto bello, è tutto questo corpo trasfigurato fatto per non morire più, hai voluto mantenere e far vedere, perlomeno in queste circostanze, poi probabilmente in altre circostanze può anche non mostrarle le piaghe, far vedere le tue piaghe, mostrò le mani e il fianco. Come se Tommaso avesse detto: anch'io ho diritto a vedere il risorto così come l'avete visto voi. Anch'io ho bisogno di vedere il risorto. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. E il Papa Francesco, nella festa di San Tommaso di qualche anno fa, diceva di fronte a questo Vangelo: il Signore, incredulo era anche Tommaso, al quale il Signore si è mostrato solo 8 giorni dopo quella prima apparizione. Il Signore, ha detto il Papa spiegando questo ritardo, sa quando e perché fa le cose, a ciascuno dà il tempo che lui crede più opportuno. Anche questo è significativo per noi, no? Ciascuno di noi ha il suo tempo dell'incontro con Gesù, del comprendere qualcosa di lui, del capire qualche cosa di più su quello che tu, Gesù, vuoi dalla nostra vita. A Tommaso ha concesso 8 giorni e ha voluto che sul proprio corpo apparissero ancora le piaghe, nonostante fosse pulito, bellissimo, pieno di luce. Proprio perché l'Apostolo, ha ricordato il Papa, aveva detto che se non avesse messo il dito nelle piaghe del Signore non avrebbe creduto. Era un testardo, ma il Signore, ha detto il Papa, ha voluto proprio un testardo per farci capire una cosa più grande. Tommaso ha visto il Signore, è stato invitato a mettere il suo dito nella piaga dei chiodi, a mettere la mano nel fianco, ma poi non ha detto: è vero, il Signore è risorto. No, è andato oltre, ha detto: mio Signore e mio Dio, è il primo dei discepoli che fa la confessione della divinità di Cristo dopo la resurrezione e l'ha adorato. Siamo grati anche a Tommaso di questa sua incredulità. In fondo, che bello vedere Gesù che tu trasformi anche in positivo una cosa che per sé è negativa, una mancanza di fede, no? Una cocciutaggine, un non volere, cosa che invece tutti noi siamo chiamati a fare, ascoltare la parola degli apostoli, dire: credo perché tu, Tommaso, l'hai visto e hai toccato quelle piaghe, credo sulla tua parola e sulla parola di Pietro, di Giovanni, di tutti gli apostoli. Noi crediamo sulla fede degli apostoli alla resurrezione di Gesù. con un dono del Signore, che la fede è un dono di Dio, grazie all'intercessione di Maria, grazie appunto alla forza dello Spirito Santo che ci dà questa fede, che ci dà questa fede nel battesimo. Ma Tommaso non ha voluto all'inizio credere, e questa sua incredulità serve a noi a scoprire l'infinita misericordia di Dio nei confronti di ciascuno di noi. Forse Gesù, tu hai voluto cominciare ad aiutare i tuoi discepoli a dare importanza a questa domenica, no? Al giorno della risurrezione, 8 giorni dopo, no? E loro hanno cominciato così a capire com'era importante questo giorno. Il sabato, che era il giorno di Dio, il giorno del riposo, il giorno che ricordava la prima creazione, diventa la domenica che ricorda questa seconda creazione, il corpo di Cristo risorto, è una nuova creazione. E in vista di te, Gesù, sono state fatte tutte le cose. Anzi, Dio Padre le ha create nello Spirito Santo attraverso di te. E per mezzo di te sono state fatte tutte le cose. Quindi tutto ciò che è creato porta a Cristo e ci parla di Lui. È stato creato in vista di Lui. In questa nuova creazione noi crediamo. Oggi diciamo a Gesù, oggi in questo momento di meditazione pensiamo di stare come nel cenacolo e tu appari, e ciascuno di noi è come Tommaso, perché anche noi abbiamo bisogno di credere. Anche noi siamo increduli, a volte così in generale, altre volte su alcune cose in particolare, di quello che tu fai, di quello che tu ci chiedi, di quello, ecco, del significato della nostra vita. Allora noi ci sentiamo che tu cerchi personalmente ciascuno di noi. Tu vieni da me 8 giorni dopo la Pasqua, vieni da me, ti avvicini a me personalmente, mi chiami per nome, mi prendi le mani, e come in alcuni quadri bellissimi vediamo, no? Gesù che prende la mano di Tommaso e la appoggia sul suo petto, e col dito di Tommaso che entra nella piaga e la mette sulle sue mani, e venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Forse possiamo pensare anche questo, Gesù, che tu vuoi che, cioè che la nostra fede personale, la fede di ciascuno di noi, venga rafforzata nella fraternità, nell'unità con la Chiesa, no? nello stare insieme. A volte spiritualmente siamo uniti, altre volte anche ci serve tanto, ecco, pregare insieme e partecipare insieme alla messa. E tu, Gesù, gradisci questo fatto, che Tommaso sta con gli altri. Avresti potuto raggiungerlo anche lui sulla strada, come invece entri dentro nella casa e appari a tutti, pace a voi, dai del voi, no? Poi ti rivolgi a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. In effetti Tommaso, con questo toccare il corpo del Signore, riceve la fede. È tutta un'altra cosa, cambia tutto. Mio Signore, mio Dio, queste parole così importanti, così belle, così fortunate, no? Che tante volte noi stessi ripetiamo davanti all'Eucaristia, ma non solo, davanti a un crocifisso, davanti nella nostra orazione, quando ci immaginiamo, ma è una cosa vera, che guardiamo queste piaghe, prendiamo in mano queste mani di Gesù e anche i suoi piedi, le donne della risurrezione si gettano ai suoi piedi, no? perché evidentemente nella modalità che avevano allora i piedi erano raggiungibili, no? Erano calzature che permettevano di baciare i piedi, no? E in qualche modo forse per la, qualche volta penso anche questo, per la fisiologia stessa umana, no? Che a volte, ecco, i piedi sono importanti, dicono alcuni che il benessere dei piedi poi ridonda su tutto il corpo, e che da lì si può addirittura, diciamo, alcune tecniche che scoprono le malattie o addirittura le curano, cioè attraverso quella parte si arriva a tutto il corpo, quindi le donne nel baciare i piedi baciano tutto il Signore, i piedi, le mani, il costato, cioè tutto il corpo di Gesù è piegato, però lui rimane con questi segni più forti e nel toccare queste piaghe, ci viene in mente, come diceva nel San José María nel contemplare questa scena della resurrezione, diceva: io più audace, no? Come un bambino, allora ecco, bacio quella sua piaga, no? e nella sua vita spirituale ci diceva quelle cose che possono sembrare un po' misteriose, ma forse nella vita spirituale di ciascuno possono avere invece un significato, che lui si rifugiava in quelle piaghe, no? E le vedeva come, ecco, entrava dentro e riversava tutto il suo amore. E come, ecco, la piaga, soprattutto quella del costato, che fa riferimento al cuore, è come a dirci che il suo cuore è disponibile per noi, no? Che possiamo arrivare al suo cuore facilmente, che non è chiuso. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. C'è un importante teologo contemporaneo che medita su questa realtà della piaga del costato, e l'apertura del cuore sta ad indicare il dono per l'uso pubblico di quanto di più personale e intimo possiede Gesù, lo spazio aperto, svuotato, che può essere calcato da tutti. Il corpo donato è il luogo della nuova fondazione del patto, della nuova convocazione della comunità, spazio, altare, sacrificio, banchetto, comunione, e lo spirito nello stesso tempo. E quella piaga del costato nei padri della Chiesa è molto importante, da lì nasce la Chiesa, come Eva nacque dal costato di Adamo. Il Cristo muore, spiega Sant'Agostino, perché dalla sua morte nasca la Chiesa. Vaticano II: infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. In quell'acqua, in quel sangue, tutti vedono un simbolo dei sacramenti: l'acqua del battesimo, il sangue dell'Eucaristia. In effetti Tommaso, quando mette quel dito nella piaga del costato, riceve una grazia immensa. E certo, noi possiamo notare anche come quello che tu, Gesù, ci dici è una cosa bellissima e grandiosa, cioè che tu sei vivo e sei vivo con il tuo corpo, che ormai non lascia più la Trinità, cioè il Figlio di Dio per sempre è uomo anche, e quindi e questo tuo corpo è la strada per arrivare a te, per arrivare alla fede. In effetti noi E poi entriamo in contatto con il tuo corpo, con l'acqua del tuo costato, che è l'acqua del battesimo, e poi con l'Eucaristia, il sangue, il corpo, il sangue di Gesù di cui noi ci nutriamo continuamente. È mirabile vedere come di fronte alla mancanza di fede di Tommaso, non crederò, e lui stesso ha detto se non metto mano al costato, quindi che tu Gesù non gli fai tanti discorsi, no? Ma invece lo incontri personalmente con il tuo corpo e fai in modo che lui possa toccarti. E da questo pensiamo che noi credenti, inseriti nel suo corpo, no? Come nel suo corpo mistico, diciamo, cioè quindi ciascuno di noi è parte del suo corpo. Quindi ciascuno di noi, attraverso la fede, può fare in modo che questo fenomeno della fede si comunichi. Ovviamente no, noi dobbiamo anche spiegare, poi studiare la fede, ma però è vero che a volte può succedere che le persone possano recuperare la fede proprio a contatto col corpo di Gesù, che vuol dire anche di fronte a un crocifisso, per esempio. Con l'Eucaristia, ma anche quando conoscono un cristiano che ha fede e vengono da lui ascoltati, aiutati e anche curati, no? Sapete bene che il Papa Francesco, quando contempla le piaghe di Gesù, dice, ecco, ci parla anche delle piaghe del corpo mistico di Cristo nelle persone sofferenti. A volte sentiamo la tentazione, scriveva nell'Evangelii Gaudium 270, di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Questa immagine di Gesù che va da Tommaso è un'immagine attraverso la quale comprendiamo la forza della tenerezza del suo corpo risorto. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenere a un popolo. Allora, io penso che la persona più contenta di vedere Gesù, anche questa seconda volta, è stata sua madre Maria, che per prima ha contemplato queste piaghe quando Nicodemo ha schiodato il corpo dalla croce e gliel'ha messo tra le braccia. E lei ci può aiutare ad incontrarlo, a toccarlo come fa Tommaso e a ricevere da questo incontro con il corpo di Cristo un grande aumento della nostra fede, che possiamo dire anche noi, toccando il corpo di Gesù come Tommaso, mio Signore e mio Dio.